Un saluto da Max Macchia, Re di Città Fujiko, 451 frammenti sonori, anche questa sera in mia compagnia. Chiaramente, insomma, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando sia in diretta e quelli che ci ascolteranno anche sul blog, così ricordo anche il blog curato da Lorenzo Albano, ovvero 451frammentisonori.noblogs.org, per chi insomma volesse riascoltare o ascoltare appunto le trasmissioni. Questa sera strane alchimie, ovvero ci tufferemo, perché di tuffo si tratta, visto che è in una sorta di qual maniera andremo a trattare di liquidi o di strane sostanze liquide che miscelandosi combinano e danno risultati eccezionali, appunto alchemici, in questo senso artisti che rimandano insomma un po' ai vecchi alchimisti, perlomeno come senso insomma dell'avventuroso, anche del rischioso, dell'ignoto, perché insomma le cose che mischiano sono assolutamente fuori dai gangheri, ma non solo così in termini appunto di estetica, di bizzarria, ma anche proprio come risultati sonori. Ascolteremo quindi sia qualcosa che viene dal passato, che poi in passato non è, visto che poi ci sono la stragrande maggioranza degli autori che metteremo questa sera sono anche per quelli che insomma affondano con i primi dischi e con le cose che metteremo anche qualche decennio fa, in realtà sono insomma più che vivi, sono attivissimi, con lavori anche piuttosto interessanti, e poi qualche cosa invece che appartiene ai nostri giorni, alle ultime settimane di vita musicale ovviamente, o di vita laboratoriale, visto che stiamo parlando insomma di alchimisti o presunti o forse insomma insospettabili tali, o per altri versi insomma veri e propri maghi dei laboratori sonori che trattano, bistrattano o ultratrattano per altri versi. Iniziamo con uno dei grandi di sempre, delle musiche, di tutte le musiche possibili e forse anche impossibili, che è Jaino, storico già dentro Fujit Susha, formazione straordinaria per comporre musiche assolutamente psichedeliche, con un senso iperbolico che le porta appunto fuori anche dal genere, per arrivare a attitudini sperimentali tout court, che Jaino poi con la sua carriera solistica dagli anni 80 in poi sperimenterà sulla vocalità in maniera eccezionale, uno dei forse artisti vocali più evocativi e più incredibili per quanto riguarda sperimentazioni appunto e livelli di ricerca legate appunto alla vocalità, senza insomma per forza andare a citare, ma forse bisogna farlo, insomma quando si parla di vocalità e di vocalità estrema non si può non citare, quindi lo faremo, Demetrio Stratos, forse anche insomma un continuatore per alcuni versi, ma anche con un modo tutto suo di trattare la materia sonora, quindi non soltanto la vocalità, ma anche proprio la composizione, sempre piuttosto aperta, una friforma eccezionale, veramente con elementi disparatissimi che creano una miscela a questo punto decisamente esplosiva. Andiamo a prendere da un disco non di tantissimo tempo fa, Anima Mima, non Anima Mia, insomma è un'altra faccenda, ma tutta italica, e dove c'è una sorta di ritualismo, di ritualità che viene trattata con un senso tra rock e cerimoniale anche del rock, quindi con un'idea psichedelica dronante di questo, insomma di questa materia che va a essere così in maniera piuttosto eccezionale, elaborata e manipolata. Cajaino quindi dal suo splendido disco veramente eccezionale, anima mima, proprio per iniziare queste strane alchimie di 451 frammenti sonori.

un estratto da Anima Mima di Cageino, lavoro eccezionale, un piccolo estratto perché in realtà sono due CD, 50 e 45 minuti circa, di musica che diventa magica, un'alchimia nel vero senso della parola, una miscelazione di elementi tra antichità, forse talmente portate indietro quasi da smarrire qualsiasi riferimento temporale, un senso della ritualità, dell'ancestralità, che ci porta appunto in spazi temporali assolutamente inediti, fuori da tutto. E tra l'altro Cageino in questo lungo viatico di Anima Mima si fa accompagnare da Sitartà, 30 musicisti di sitar che creano questo drone, già uno strumento di per sé con veramente una fascinazione incredibile, quello appunto del sitar, qua quasi portato a una sorta di massimalismo, appunto 30 elementi che creano dei drone, dei flussi veramente iper psichedelici, portando fuori la materia sonora e facendola diventare insomma un qualcos'altro, qualcosa di forse vivente, quasi ricordando anche un altro grande come la Monte Young, altro grande alchimista che sembrava e ancora sembra preparare le sue musiche come organismi viventi che abbiano quasi una vita propria, quasi che gli echi, i riverberi portino un altrove già quello che di fatto è allucinatorio dentro queste musiche. E se con Cageino insieme a Sitartà abbiamo trovato questo spazio temporale, ancestrale, così paradossale, e con Maja Ratje e Jap Blanc andiamo invece forse è più in un piano di contemporaneità, visto che la Maja Ratje si occupa di vocalità, forse in un senso meno così meno ieratico di Cageino, più legato forse alle sperimentazioni contemporanee, ma non per questo insomma meno spinto, anzi. E Jap Blanc, un artista olandese, da ricordare che tra l'altro Maja Ratje artista norvegese, si trovano in quel del nord Europa per produrre un disco che già è programmatico nel titolo, Post Human Identities, in effetti di musiche e di identità postumane, e quindi anche qua con un senso assolutamente paradossale, seppur più legato a certe contemporaneità, a certe sperimentazioni, però con risultati sorprendenti, tra musiche concrete, sorte di spoken word in alcuni momenti, momenti di noise, di musica concreta, che si vanno a legare anche a momenti così che ricordano anche molto quello che è poi il percorso di Jap Blanc, che è artista che oltre che occuparsi di musica si occupa anche come curatore di molte della riscoperta di molte opere Dada, tra l'altro con un senso decisamente Dada, soprattutto quelle incompiute o portate all'epoca all'insuccesso, quindi riprese con spirito assolutamente Dada, appunto da Jap Blanc. Disco decisamente strano, decisamente una strana alchimia questa di appunto Maja Ratje e Jap Blanc, dalle loro umanità post identitarie a cercare o forse a smarrire definitivamente un saper musicale. I'm not going to be able to do that.

Beh, se la canta quasi da sola qua, Maya Ratje, non capisco voi perché non conosco ovviamente il norvegese, quindi la dico un po' così male ovviamente, insieme a Jap Blanc, lavoro veramente non particolarmente facile all'ascolto, d'altronde insomma dico anche un po' di ovvietà da queste parti, ma con veramente un progetto attualità che è assolutamente data già nel mondo di porsi. Jean Blanc, avete sentito insomma momenti deliranti a livello vocale, elettroniche che impazziscono, vanno veramente fuori da anche dalle glicerie più inconsuete fino a toccare appunto territori vicino al nord. Noise. Poi ancora mi scuso di queste vocalità che tende a appunto andare su una sorta di razionalità, però appunto progettualmente poi controllato. Questo infatti è una delle grandi alchimie, forse la grande alchimia appunto di questo post human identities, è proprio è qua che si gioca anche proprio in una maniera anche piuttosto rischiosa, e questo post post umanità, questa identità appunto postumana che viene trattata immaginando e musicando insomma una sorta di delirio, di smarrimento, di perdita appunto di sapere, anche piuttosto consapevole, perché insomma due sperimentatori oramai più che rodati, sia Radje che Blanc, quindi dentro appunto una sorta di rimescolamento assurdo e volutamente insomma folle delle carte. E se parliamo insomma di spiriti Dada, qua si va forse insieme a Cajain a toccare una sorta di nomadismo musicale, ma non soltanto, visto che Gedalia Tarzarté è stato di fatto un nomade, un girovago che assolutamente prendendo spunto dalle musiche del mondo, qua forse verrebbe anche da pensare non tanto alla world music, insomma fin troppo semplice come faccenda, ma perlomeno alle musiche di John Hassell, alle musiche possibili, al quarto mondo musicale appunto dell'altro grande compositore Hassell. Invece con Tazartes si va veramente quasi a trovare un quasi momento dopo momento, disco dopo disco, ma anche appunto proprio nell'ascolto, momenti musicali estremamente diversi, quasi un trova rubato musicale, un bric-a-brac dell'assurdo, se non fosse insomma che Tazarté poi di fatto è geniale in questo trattamento di materiali assolutamente straordinari, quasi un canto da muezzin quello di Tazarté in alcuni momenti, come momenti invece vanno verso musicalità che potrebbero sembrare dell'estremo oriente, ma poi diventano altro con anche appunto questa francese, fatemi passare il termine, che entra anche, quindi anche con tutta una stratificazione se vogliamo della storia, del senso della storico anche che dà alle musiche attraverso insomma le varie musiche popolari nel corso dei secoli che si sono succedute, che anche in Francia insomma hanno influenzato poi e si sono fatte influenzare appunto da le varie dei vari momenti storici di conquista, di momenti insomma in cui di fatto le cose si stavano contaminando, le genti si stavano contaminando, quindi Tazartes riprende forse questo, questo incredibile poi modo di così essere grande ricercatore, quasi uno spirito umanista in questo senso. E Tazartes lo andiamo a prendere con Un Eclipse Total de Soleil, in effetti è un po' una eclisse totale di sole, perlomeno in termini immaginari e sonori, quelli che andiamo a ascoltare da parte appunto di questo grande, grandissimo autore. qualche problema con le parti tecniche, ma proviamo a sistemare un pizzichino, perché insomma il pezzo di Tazartè veramente merita non tanto ma di più, quindi proviamo insomma con insomma, i mezzi che abbiamo. Ha ragyote,